festa su CRM Happy Radio Deja Vu con Mary Catalano. The final countdown. Mamma mia, quanti ricordi legati a questa canzone che oggi apre l'appuntamento con Déjà Vu insieme a Mary Catalano e insieme Peppe Carrozza. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ci siamo anche questa mattina. Abbiamo fatto il conto alla rovescia, speriamo anche voi, perché iniziasse questo nuovo appuntamento ricco di musica soprattutto, che si protrarrà, come diciamo sempre, sino a mezzogiorno, anche per questo giovedì del 30 di maggio. Mi sembra questo mese di maggio il mese di marzo. Troppo impazzito. Non vuole smettere. Non vuole smettere di farci impazzire, non so più veramente. Speriamo che giugno ci porti qualche cosa di nuovo, di positivo, insomma. Di positivo come il meteo. Anche in questo caso facciamo il countdown a conto alla rovescia per quanto riguarda l'estate. Sì, si sa che entra il 21 di giugno, vorremmo arrivasse prima. Tra l'altro, lo scorso anno, in questo periodo, io ero già bella abbronzata, perché mi ricordo che andavo al mare già da qualche settimana di questo periodo e le giornate lo permettevano, non erano così fresche come, come in questo caso. Va bene, arriverà. Speriamo un po' e arriveranno, e poi magari ci pentiremo di quello che abbiamo detto, perché soffriremo di caldo. Ritorneremo indietro. E va bene, comunque sia, non è il momento di pensarci. Pensiamo ad oggi, sì, al nostro appuntamento che sarà ricco di musica ma anche di informazione. Naturalmente parleremo di qualche curiosità. E oggi l'argomento principale vogliamo sia questo: single o coppia? Facciamo un duello. Facciamo un sondaggio questa mattina e cerchiamo di coinvolgervi, e coinvolgetevi in questo senso, interagendo con noi nei vari modi che avete a vostra disposizione. Potete scriverci anche sul sito di crmfradio.it, oltre che seguirci in streaming, oppure potete inviarci un SMS al 335 5637 251, oppure telefonare allo 0921 923292. In più, poi, se potete, se non siete ancora nei nostri contatti CRM, andate nella pagina Facebook e cliccate sul bottone mi piace, quello col pollicione sollevato in alto. Esattamente. Perfetto. Allora, continuiamo questo appena cominciato appuntamento e poi entriamo nel dettaglio per quanto riguarda questo duello single verso coppia. Vediamo, insomma, un po'. Vediamo un po' come la mettiamo in questo senso. Intanto arriva Elisa insieme a Luciano Ligabue. Chi non ricorda questo pezzo? C'è un principio di magia fra gli ostacoli del cuore, mi si attacca volentieri. Fra una sera che non muore, è una notte da scartare, come un pacco di Natale. C'è un principio di ironia nel tenere coccolati i pensieri più segreti e trovarli già svelati. E a parlare ero io, sono io che li ho prestati. Quante cose che non sai di me, quante cose che non puoi sapere. principio di energia che mi spinge a pendolare fra il mio dire ed il mio fare. E sentire fa rumore camminare tra gli ostacoli del cuore. Quante cose che non sai dire, quante cose che non puoi sapere, quante cose da portare nel viaggio insieme, quante cose che non sai dire. Cose che non vuoi sapere, quante cose da buttare nel viaggio insieme. CRM P Radio Deja Vu, Mary Catalano e Giuseppe Carrozza, ancora buongiorno. Ancora buongiorno. Ancora buongiorno a tutti i ritardatari all'ascolto. Buongiorno ancora a tutti quelli che continuamente ci ascoltano invece e dovunque voi siate, naturalmente vi teniamo compagnia. E stamattina, come dicevamo prima, l'argomento principale che vogliamo trattare è la guerra tra single, guerra fra virgolette, tra single e coppia. Voi da che parte state? Vogliamo proprio saperlo, da che parte state, raccontatecelo, insomma, i vantaggi e gli svantaggi dell'essere single e dell'essere in coppia, che cosa significa essere single, cosa comporta invece vivere una relazione di coppia, chi è da solo è libero e invece chi ha un partner non lo è, spesso sui giornali, in TV, anche tra amici si parla di cosa comporti l'uno o l'altro status e ci si chiede cosa sia meglio, anche se in realtà nessuno ha la verità in tasca e tutto dipende molto dai momenti della vita e dalla personalità di ciascuno di noi. Di seguito noi cercheremo, proveremo a vedere quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questi due stati civili. Che ne dite? Che ne dici, Peppe? È un po' così, in sospeso, diciamo, tutta la situazione. Vedremo un pochettino cosa ci risponderanno i nostri ascoltatori. Se vi ricordate, c'era un film di Pieraccioni, Leonardo Pieraccioni, del penso del 2006, che era Il Paradiso all'improvviso. Sì. Che lui proprio iniziava il film con elogiando l'essere single, lo status di single, quindi metteva in evidenza tutti i pregi e i vantaggi, sì, dell'essere single. Però poi alla fine del film, diciamo, cambiava un po' idea e diceva sì, i single sembrano essere più egoisti forse per di natura e quindi se si trova l'anima gemella forse è anche meglio. Comunque, essere single non significa necessariamente non avere un partner, comunque, e non vivere un rapporto di coppia. Si può essere single, però comunque avere qualche storiella, e per molte persone essere single è una condizione mentale che accompagna in qualunque momento della vita. Detto ciò, prenderemo in considerazione le persone che sono single, cioè che non hanno un partner, sia per scelta personale che per altre cause, e proveremo anche ad analizzare i pro e i contro di questo status, giusto Giuseppe? Sì. Allora vi ricordo sempre 335-56-37251 per interagire in questo senso con noi e naturalmente scriveteci anche al nostro sito www.crmepiradio.it e anche su Facebook. Sì, su Facebook andate a cercare la pagina CRMP Radio e potete anche interagire con noi in questo senso anche su Facebook. Io approfitterei, Mary, per salutare Jerry, che è sì, certo, una nostra collega. Tua collega, buongiorno. Spero anche mia la prossima. Sì, sì, sì, sì. Mi piacerebbe tanto che spuntasse così all'improvviso. E magari, perché mi sa che io fra poco finisco, quindi vediamo un po', magari oggi ci fa questa sorpresa. Non si sa mai. Comunque sia, già il fatto che ci abbia scritto è un buon segno. Ci ha mandato un segno in qualche maniera. Ci sono anche io, dice. Infatti. Ritornando al discorso di essere single, è fondamentale quando si ha un compagno scoprire i vantaggi dello stare soli, perché in questo questo modo si può trovare un equilibrio e di conseguenza la serenità. Essere single non significa essere soli, come dicevamo, anzi spesso proprio chi non ha un compagno ha molte amicizie importanti e vive anche una vita sentimentale più intensa, fatta di quei momenti di passione ed emozioni che sono anche continue nella vita a due, e dopo un po' di tempo vengono a mancare, e perciò il single potrebbe avere una necessità particolare, no? I vantaggi di essere single, dimmeli tu, anche se non sei single, mi sa. No, però lo sei stato. Per un po' di tempo lo sono stato anche io, sì. Allora, non avere una relazione di coppia ovviamente può portare a numerosi vantaggi, soprattutto se poi si vive questa fase in maniera positiva e costruttiva. Per prima cosa si ha più tempo da dedicare a se stessi e la libertà di organizzarsi le cose come più ci piace. Certo. Questo che cosa significa? Significa che possiamo uscire quando si vuole e con chi si vuole, mangiare quando si ha fame, decidere di partire anche all'ultimo momento per un weekend con gli amici, oppure non essere obbligati a pranzare con suoceri e parenti del partner. A differenza poi dell'uomo o della donna che sono sposati, che tradiscono, la persona single non ha bisogno di mentire a nessuno. Vive la sua vita esattamente per quello che è. Quindi insomma, molto è già un altro grande problema in meno. Quindi questi vantaggi dell'essere single. Approfondiremo di più questo argomento fra poco, parleremo anche di quelli in coppia, naturalmente, ovvio, anche dei vantaggi di quelli in coppia. Nel frattempo voi continuate comunque ad ascoltare la musica, ma anche a interagire con noi in questo senso, 335-5637-251, e andiamo avanti con il nostro appuntamento. C'è un'altra bella canzone per voi, eccola qua, Love It or Leave It. Long is the way when you're aching to say, but your teeth bite your tongue. Loud is the wind in your ears when you spin as you look for the sun. Loud are the skies as you thunder your cries when your prayers are sung. Love it or leave it. Love it or leave it. Leave it. Déjà Vu su CRM Happy Radio. Mare blu, Certo che questa canzone si può adattare benissimo ai single che potrebbero cantare per un'ora d'amore, darei anche il cuore, insomma una cosa del genere. E a proposito di single, ci scrive Lorenzo da Geraci, single per scelta, e scrive: sono single per scelta e sono convintissimo che è meglio soli che malaccompagnati. Che grazie. Dobbiamo dire? Grazie Lorenzo, Lorenzo da Geraci. Hai pure tu le tue ragioni, è vero, meglio essere soli che essere accompagnati da cattive compagnie, appunto. Avevamo prima parlato dei vantaggi che ci sono nell'essere single. Abbiamo detto che si può uscire quando si vuole e con chi si vuole, mangiare quando si ha fame, non c'è bisogno di mentire perché tanto essendo single quando fai le cose non tradisci nessuno, ovvio. Quindi non hai bisogno di mentire, ci sono davvero tantissimi vantaggi, però in buona sostanza il bello di essere single, sì, ci sono i vantaggi, però ci sono anche tuttavia molti svantaggi, anche molti aspetti negativi nella vita da single. Primo tra tutti è l'essere soli, soprattutto quando si necessita di qualcuno, oppure appoggiarsi e condividere momenti della vita, ma anche piccole cose come il potersi dividere i compiti di casa, le spese e le bollette. Essere single ovviamente tutta la vita significa anche non provare la gioia di invecchiare insieme o di condividere dei figli e una famiglia, ma per qualcuno questi ultimi aspetti potrebbero solo essere un peso, quindi parliamo ovviamente di persone anche un po' egoiste, devo dire, in questo sì. senso, e quindi è importante essere consapevoli della propria scelta per non avere dei rimpianti poi in futuro, no? Certo. Dobbiamo essere convinti anche in questo senso, convinti di rimanere single a vita e accettare tutte le conseguenze negative che ci sono. Abbiamo parlato dunque dell'essere single, ma naturalmente c'è anche l'altra medaglia, certo. l'altra medaglia, esatto. Che sono quelli di coppia. E quindi bisogna differenziare la semplice condizione di essere in coppia dalla situazione di essere in coppia perché magari si è innamorati. Solo nel secondo caso vi potranno essere molti più benefici rispetto alle difficoltà, in caso contrario si vivrebbe infelici e insoddisfatti, certo. Ovviamente. Vivere una relazione amorosa quindi porta molti vantaggi. Alcuni di questi possono essere ovviamente quello di soddisfare il bisogno biologico di continuità della specie e di creare legami d'amore e d'affetto. Chi vive una relazione stabile d'amore è meno stressato perché quando torna a casa c'è sempre qualcuno pronto ad ascoltarci, a supportarci e ad aiutarci. E io aggiungerei anche a sopportarci. I due partner possono poi aiutarsi l'un l'altro e superare i rispettivi limiti e paure. Certo, poi questo quando c'è l'amore si possono superare tutte cose. Tutti si i sa. Limiti, certo. Però ci sono anche, come nei single, anche gli svantaggi della vita di normale. Quindi anche quando ci si ama ci possono essere degli svantaggi nella vita a due che però possono essere superati, come dicevamo, con l'affetto, la comprensione e l'idea che si è comunque due esseri liberi e non che uno appartiene all'altro. Certo. La cosa che più pesa a chi vive una relazione è il dovere di dare spiegazioni all'altro sulle scelte anche quelle semplici, semplici sì. E quelle più importanti poi della vita, ma soprattutto poi quelle semplici. Certo. Il dare delle giustificazioni su alcuni comportamenti e dover prendere in considerazione anche la presenza dell'altro nei momenti in cui decidiamo di fare qualcosa nella nostra vita, quindi. Chi vive una relazione di coppia non può pensare singolarmente ed egoisticamente, ma deve tener conto dell'esistenza dell'altro. Detto ciò, nessuno è miglior giudice di noi. Certo. Dobbiamo fidarci del nostro intuito, usare la testa e avere rispetto per noi e anche per gli altri. Si sa che alla base di tutto, quando si vive in coppia, c'è appunto il rispetto e soprattutto la fiducia. Senza queste due cose non si va avanti proprio per niente. No. E per cui va a finire che uno sceglie poi di essere single. Sì, il bello di essere single, comunque il bello di essere single, qualcuno dirà. Essere singolo ha i suoi vantaggi e può far stare bene davvero, e sapete perché? Ve lo diremo fra poco. Intanto andiamo avanti con il nostro appuntamento e c'è Justin Timberlake con Mirrors. Fateci ancora sapere cosa ne pensate. Sempre al 3355637251 e anche al nostro sito internet. Aren't you something to admire? 'Cause you shine on something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and The glare makes me hard to find. Just know that I'm always there and now on the other side. Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place that could it go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. Cause it doesn't seem really as simple. And I can't help but stare, cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand in a pocket full of soap, I can tell you there's no place we could go. Completamente calma, me di corpo perché siamo sabbe mobili. Bring me back tonight when you light the fire. Makes me feel so high, never coming down. It's more than just a fantasy come true. I feel your love rising from deep inside of me. Up to ecstasy. Unless I see you, your desire's pulling me to exactly where I need to be. It's so good that I can hardly breathe. I feel it take over me. Mi lascia ancora immergere. Sei acqua che sa spegnermi. Il tuo sapore diventerà forza di gravità. Bring me back tonight when you light the fire. Makes me feel so high, never coming down. Take control and show me how it feels to go from heaven up to ecstasy. Sento ogni battito del tuo cuore stringere i miei sensi. Sospiro appeso a un brivido qui, che così intenso dal profondo sale su, fino all'estasi. You're drowning in the deep for me. Don't fight it, just let it be. Fino all'estasi. Now your desire is pulling me. Our love is like gravity. It's gravity, baby. Tu che mi dai vita completamente. Pretendimi. Take control and show me how it feels to go from heaven up to ecstasy. Sento ogni battito del tuo cuore stringere i miei sensi immobili. It's more than just a fantasy come true. I feel your love rising from deep inside of me up to ecstasy. Connubio tra lingua italiana e lingua straniera era Ramazzotti insieme a Nicole Scherzinger, è così che si pronuncia, fino all'estasi, il nuovo singolo per questi due, che sicuramente saranno un tormento per le prossime settimane, l'ascolteremo tantissimo. Siete sempre all'interno di Deja Vu, qui su CRM Happy Radio insieme a Mary Catalano e Peppe Carrozza. E continuiamo a parlare del nostro argomento che stamattina abbiamo voluto adottare, single verso coppia. Vediamo un po', abbiamo visto avuto un po' di risposte, un sì. Po' ci ha scritto Marianna che stavolta è dalla parte della coppia, quindi dice assolutamente dalla parte della coppia, è necessario ad ogni essere umano avere un partner con cui condividere le infinite emozioni della vita. Bel sondaggio e bella sfida, grazie Marianna. Grazie Marianna, anche a te non possiamo dare tutti i torti, ci sono i pro e i contro comunque in tutte le cose, e anche in questo caso ci sono i pro e i contro sia nell'essere single che nell'essere di coppia. Parlando sempre del bello di essere single, si sente sempre sempre più spesso parlare della singletudine come qualcosa di nefasto e terribile. Le donne single vengono definite con il termine orrendo di zitella, un sacco di volte l'abbiamo anche detto qualche volta, vero? E negli ultimi tempi sembra che sempre più donne belle, anche intelligenti e anche attive socialmente apprezzino questo status, anche se definite emotivamente instabili, anticonformiste a tutti i costi, femministe fuori tempo e affamate di sesso addirittura. Queste sono le donne single secondo la maggior parte delle persone, ma in realtà spesso si tratta di donne belle, felici e single, o orgogliose di esserlo, che pensano di avere scampato praticamente dei guai. Forse non hanno tutti i torti, anzi, altro che. La verità è che ci sono molte donne senza compagni che non hanno affatto bisogno di un uomo per sentirsi realizzate e appagate. Però quando effettivamente essere single è bello? Quando è che c'è veramente il piacere della singletudine? Dai tempi dei tempi ci hanno sempre raccontato che solo quando si trova l'anima gemella si può essere felici e complete. In realtà però, c'è sempre un però, non c'è nulla di più sbagliato, sembra, che lasciare dipendere la propria soddisfazione, il proprio equilibrio e benessere dagli altri, e in particolare da un uomo. La donna che sta bene anche da sola è colei che ha lavorato sulla sua autostima e ha imparato a mettere se stessa al centro della sua vita. E come, ci chiediamo? Beh, sperimentando la cosiddetta solitudine costruttiva, cioè ritagliandosi dei momenti in cui fare cose senza amici, familiari, eccetera, e cercando di avere esperienza dei propri comportamenti in contesti dove solitamente si è accompagnati, come ad esempio al cinema, al teatro, al ristorante. Questo è un ottimo esercizio per conoscere la propria identità e le proprie qualità e per emanciparsi dalle limitazioni altrui. Ed è un modo anche essere single ed è un modo per divertirsi anche senza avere per forza accanto qualcuno che magari brontola oppure giudica o condiziona addirittura. Questo esercizio serve sempre anche quando poi single non lo si è più. Infatti essere single ora non significa che sarà per sempre, perché poi uno può decidere in futuro di farsi appunto un uomo, una compagna. Insomma, le donne che sanno apprezzare il loro status single non necessariamente non vogliono un uomo a priori, in realtà non lo cercano, ma non escludono a priori di trovarlo, semplicemente non hanno intenzione di accontentarsi, e mi pare pure giusto non accontentarsi di portare avanti una relazione pur di sistemarsi, ma si vogliono bene e pensano di meritarsi il meglio. Quindi basta con questi nomignoli di zitella a queste donne sole, perché poi alla fine secondo me sono quelle che veramente in qualche maniera stanno un po' meglio. Sicuramente hanno meno pensieri, sicuramente hanno meno pensieri. E come lo vede l'uomo, tu che sei uomo, Peppe? Sì. Com'è che gli uomini vedono questa singletudine, appunto, per quanto riguarda queste donne convinte di essere single? Ma un po' scottante, diciamo, ecco, sì, mettiamola sì, sotto questo. Diciamo punto. Sì. Perché vedete, gli uomini di oggi non è vero che sono spaventati da questa tipologia di femminile, anzi, hanno molta stima di loro. Mi pare giusto. Anche perché, soprattutto quando si tratta di single forti e autonome, a patto però che non perdano la loro femminilità e non smettano di coltivare le differenze rispetto all'altro sesso, perché altrimenti... Naturalmente, certo, perdono poi di fascino, ecco. Infatti non necessariamente una donna single convinta è colei che vuole portare i pantaloni a tutti i costi. Non si sente in competizione con gli uomini, né li vede come dei nemici, ma semplicemente non li considera indispensabili. Quindi per concludere... possiamo ricapitolare dicendo che essere single può essere bello perché si diventa padrone della propria vita, certo. Ci si sente liberi e forti, sì. Quasi anche temerarie, potremmo anche azzardare a dire. Ci si conosce profondamente, si mettono in piedi piccoli e grandi progetti senza alcun condizionamento. Non si deve rinunciare a nulla e non si ha paura di causare litigi, incomprensioni e ovviamente separazioni con tutto ciò che poi ne consegue in caso di matrimoni. E non è poco. Ovviamente ciò non significa che stare in coppia sia negativo, anzi, ma è importante per una donna capire che anche senza un uomo al fianco si vale. E come? E come? E che certe situazioni si possono solo vivere stando da sole. Nella coppia sono fondamentali i compromessi, con se stesse invece no. Infatti quando un genitore dice alla propria figlia o al proprio figlio: prima studia, poi trovati un lavoro, poi fatti la tua indipendenza e poi... fai la vita di coppia se vuoi e ti metti su famiglia. Ci ecco, sarà questi un motivo, sono, no? C'è un motivo, no? Sono dei consigli saggi. Ascoltiamoli questi genitori, queste persone più grandi di noi che ne sanno qualcosa di più. Ascoltiamoli. Non facciamo sempre di testa nostra. E nel frattempo ascoltiamo anche la musica, la vostra musica, quella che ci segnalate voi. Questa volta arriva da qualcuno. Sì, da Ettore, che va bene, è mio padre. Mi ha richiesto questa canzone di Little Tony che oggi ci sta quasi a pennello. Ma guarda, è bellissimo sapere che tuo padre ti ascolta e che ti richiede anche le canzoni, ecco. E che possiamo fare, lo accontentiamo subito. Sì. Ciao Ettore. Un cuore matto che ti segue ancora, e giorno e notte pensa solo a te, e non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Che crede ancora che tu pensi a me, non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Dimmi la verità. La verità, tu non bene e ti perdona tutto quel che fai. Ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai, così lo perderai. Bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai, così lo perderai. Un cuore matto che ti vuole bene, un cuore matto, matto da legare. Tutti con le mani sul petto, tum tum tum tum tum tum tum. Un cuore matto, grazie a Ettore, l'abbiamo sentita qui all'interno di Déjà Vu. Ancora ben trovati, ben sintonizzati. Buongiorno a tutti i ritardatari all'ascolto, a tutti quelli che ci sentono buongiorno in streaming al nostro sito www.crmepiradio.it. E per chiudere in bellezza l'argomento single verso coppia, ne abbiamo parlato tantissimo questa mattina, c'è arrivato un messaggio e chiudiamo così questa parentesi riguardo a questo argomento qua, insomma. Sì, c'è arrivato un messaggio che dice: la felicità non si raggiunge per il semplice fatto di stare in coppia, la felicità si raggiunge quando la persona che ci sta accanto ci rendiamo conto che ci completa. Prosegue ancora il messaggio dicendo: le persone sagge che non hanno timore a guardarsi allo specchio ogni mattina e che non temono il confronto perché vogliono crescere ed essere ogni giorno persone migliori, stanno in coppia. Prendersi cura di qualcun altro che si affida a noi è il dono più bello che siamo chiamati a svolgere nella vita. Viva la coppia e viva forza la coppia. CRM. Ce la manda Giorgetta. Grazie Giorgetta, un messaggio profondissimo effettivamente. I single staranno lì in questo momento a pensarci sopra a quello che ha scritto, che è davvero molto bello. E andiamo avanti col nostro appuntamento. Arrivano i Depeche Mode con Soothe My Soul. Is anyone wasting my soul? Su CRM Happy Radio. Watching you. Tripolis, CRM Pirelli all'interno di Deja Vu con Every Breath You Take, con la voce straordinaria di Sting, che abbiamo proprio ascoltato con grande piacere questa mattina all'interno di questo appuntamento. Ancora buongiorno e bentrovati a tutti quelli che si sono messi in sintonia soltanto in questo momento insieme a noi, diciamo buon proseguimento. Buon proseguimento per gli ultimi 40 minuti, tre quarti d'ora. Abbiamo ancora un po' di tempo e parliamo di amore. Oggi ci siamo ingrippati su questo fatto dei single, delle coppie, insomma, comunque sia parlare dell'amore in generale, comunque sia fa sempre bene, sempre piacevole, e ci sono sempre tanti argomenti a riguardo, non si finirebbe mai di discutere di queste cose. E in amore, in questo caso, vorrei parlarvi in particolar modo del fatto di dirsi tutto nella coppia. Secondo voi bisogna dirsi tutto oppure no? Secondo voi è meglio o è peggio? Secondo voi dove sta la verità? Come sempre ci vi invitiamo a interagire con noi tramite gli sms 3355637251 e vi diciamo anche che non sempre dire tutto fa star bene. E sapete perché? Ci sono tanti perché in questo senso. Stavolta si è così presi dall'entusiasmo di una nuova storia d'amore che concediamo e cediamo alla tentazione di aprirci completamente col partner svelando ogni minimo segreto. Pare addirittura che la nuova tendenza tra i giovani americani, sia quella di scambiarsi le password di internet e cellulari col partner. Proprio c'è questo scambio di password e di cellulari, addirittura un modo per dichiararsi amore eterno e fiducia totale, e questo devo dire che è una prova perfetta. Ma anche un errore che può costare molto molto caro, non solo da giovanissimi. Il più delle volte è come lanciare un boomerang e prima o poi le conseguenze si fanno sentire. In tutte le storie d'amore c'è una fase in cui il cuore prende il sopravvento sulla ragione e ciò porta a fare scelte impulsive. Inoltre sappiamo bene che nei primi mesi di una storia è talmente forte il desiderio di fondersi totalmente con l'altro che si tende ad abbattere ogni segreto e si racconta tutto, tutto di sé e del proprio passato. Con il passare del tempo però è normale che in ciascuno di noi riemerga il bisogno di riappropriarsi, questa lingua che si intreccia, dei propri spazi segreti fra virgolette. Ma se fino a poco tempo prima si condivideva tutto, l'impresa poi diventa più difficile, non è più semplice riappropriarsi di questa cosa. Devo fare un po' di esercizio. Masticazione. Sì, un po' di masticazione, dire un po' quelle frasi, come si chiamano? Gli scioglilingua, ecco. Vabbè, ritornando al discorso, c'è il diritto di privacy anche nella coppia, a livello proprio legale. La privacy intesa dalla legge come riservatezza sulla propria persona e sulla propria vita è un diritto inviolabile di ogni individuo e non deve venire nemmeno non deve venire meno proprio nei rapporti a due. La cosa non si contrappone ai valori dell'amore e di condivisione, con partecipazione e unione, ma tutti hanno il diritto a mantenere uno spazio solo per sé senza che il partner si senta messo da parte. Il vero rapporto amoroso non è fatto da due metà ma da due interi, e anche se innamorata e dedita all'altro, ogni persona deve salvaguardare una dimensione individuale che non intacca il valore della relazione, chiaro? Ma è segno di rispetto, maturità e stima di sé, e se si vuole che la relazione funzioni, la privacy va comunque rispettata. E quindi non andiamo esagerando su tutte queste cose qua. Assolutamente no. Io, tu, noi, insomma. Tutte queste persone, no, basta. Infatti. E quindi nei rapporti amorosi esistono tre dimensioni che sono ben distinte, quindi il io, il tu e il noi. Certo, come dicevamo. Come dicevamo prima, sì. In alcune situazioni è giusto prevalga la dimensione di coppia, cioè il noi. Ma è importante non perdere mai di vista le unità individuali, cioè il io, certo, e il tu. Ogni individuo e ogni coppia è libero di scegliere dove finisce l'io e dove inizia poi il noi. Ma i problemi sopraggiungono quando le volontà di uno dei due non coincidono con quelle dell'altro, ovviamente. Esattamente. Comunque, è bene sapere che non sempre chi dice tutto non ha nulla da nascondere, e chi invece sta in silenzio ha dei segreti pericolosi come degli scheletri dentro l'armadio. L'apertura verso l'altro dipende dal carattere, ovviamente, dalle esperienze vissute, e c'è chi è più aperto e chi poi è più riservato. Certo. Ogni coppia deve trovare un equilibrio tra la dimensione individuale e quella di coppia, e ciascuno deve sapere fino a che punto può spingersi nell'indagare nella vita dell'altro, sul suo passato, sui suoi vecchi amori e le vecchie amicizie. Quando è giusto però mantenere la privacy? Partendo dal presupposto che ogni coppia è libera di comportarsi come meglio crede, è anche giusto sapere che condividere alcune cose personali con il tempo può causare problemi. I casi sono ad esempio questi, come ad esempio le password di social network e email, SMS, ciò che diciamo ad amici, genitori, eccetera, non sono necessariamente affari di coppia, certo, diciamoci la verità. Infatti. La scatola dei ricordi, quindi ad esempio le lettere, le fotografie, cose che appartengono al passato dell'altro, sono personali e non devono influenzare il presente e il futuro. Esatto. Oppure addirittura anche il diario personale, come che può contenere tutto ciò che non si vuole o non si riesce a verbalizzare ed è uno sfogo intimo e personale con se stessi, e chi lo legge potrebbe non capire, addirittura poi fraintendere. Quindi cerchiamo di scindere un po' le cose e cerchiamo di comunque avere rispetto reciproco anche sul fatto di comunque rispettare la privacy dell'altro, e non facciamo i gelosi prendendo di forza anche cellulari, ecco, o password. Ecco. E noi andiamo avanti con il nostro appuntamento, c'è la musica di Alex Britti. Dice porta consiglio, ma è solamente un altro sporco ricatto di quando andavo in vacanza, è solo un vecchio ricordo abbandonato a sé. E se non porto pazienza mi ritrovo da solo con la notte più lunga che c'è. Apro una pagina nuova per dare un freno a questa Italia che avanza. È un periodo cupo, molte chiacchiere ma poca sostanza. Viene incontro la vita e la ricevo sconvolto dalla vita che già c'era in me. E mi ritrovo basito in questo mondo di matti, che per matti una cura non c'è. E allora baciami e portami a ballare, tu che sai come arricchire i giorni miei. Fa che sparisca tutto il male, che sai farmi ritornare in me. Oh, oh. Mi viene incontro la strada dopo 20 anni che ci stavo correndo. Cosa vuoi da me? M'ha domandato quasi quasi ridendo. Quanti chilometri andati, quante notti al volante, inseguendo un sogno a metà. Adesso che sono grande faccio ancora domande, non si ferma la curiosità. E allora baciami e portami a ballare, tu che sai come riempire i giorni miei. Fa che sparisca tutto il male, sai farmi ritornare in me. E allora fa che sparisca la nebbia e la luna tornerà a brillare, fa che ritorni il sorriso nei pomeriggi da dimenticare, fa che ritorni il lavoro e l'entusiasmo dei giorni migliori, e poi fa che ritorni la gioia e che si riaccendano tutti i motori. Baciami e portami a ballare, tu che sai come cambiare i giorni miei. Fa che sparisca tutto il male, tu che sai farmi ritornare in me. Bentornati qui su CRM Happy Radio con Deja Vu, con Mary Catalano e anche oggi con me, con Peppe Carrozza. Allora, ritornando un po' al discorso che dicevamo prima sul fatto che in amore bisogna dirsi tutto. Beh, sì, come dice Alex Britti, forse invece di andare a cercare un pochettino magari nella privacy dell'altro, basta andare dall'altro e dire oh baciami, e così esatto, finisce tutto così, il resto. Esatto, chiudiamo così in bellezza la cosa. E a proposito di questo argomento, è arrivato un altro messaggio, sempre dalla nostra Giorgetta, che dice: certo che bisogna dirsi tutto, se si è sinceri non si deve avere paura. Parlare di tutto significa responsabilizzarsi e aiutarsi. Dirsi tutto però non significa cessare di coltivare la propria privacy. Gli spazi personali, quelli più intimi della persona, restano tali per sempre. Certo, certo, questo è anche vero. Intanto ringraziamo Giorgetta e facciamo i complimenti a lei, sì, per questo nome singolare che non si sente spesso, anzi direi che non l'avevo mai sentito, proprio bello, brava. Ti facciamo i complimenti e grazie anche ancora una volta per questo altro messaggio molto significativo e molto interessante inerente alla nostra, al nostro discorso legato appunto alla privacy nella coppia. Perfetto, noi facciamo una pausa, abbiamo poi un'altra mezz'oretta circa insieme e quindi coglieremo la palla al balzo per continuare ad ascoltare la musica che anche voi ci segnalate. A fra poco. Deja Vu su CRM Happy Radio. I'm growing like a seed. Rain's been falling on me. I've been covered in cold. I've been shrouded in doubt. My heart is on a wire. Sitting pretty like a bird. But the hunter is out. To the sky, and I'll be listening to the stars, and they'll be thinking of you, wondering where you are. Do you know what you've done for me? You made my branches grow. Now they can play with the wind, and they can carry the snow. Sento un po' nel Far West con questa canzone, sonorità un po' da Far West, mi immagino con un cavallo, un cappello al galoppo e il Kating Tunstall con questo singolo che si chiama Philly Roll. Allora, abbiamo parlato di privacy, di rispetto nella coppia, appunto mantenere la propria privacy, eccetera, eccetera, e parliamo adesso del fatto di spiare il proprio partner. Secondo voi è giusto o è sbagliato? La domanda sarebbe semplice, la risposta sarebbe semplice. Molto semplice. Sì. Però. E però qualcuno lo trova anche giusto, certe volte lo fa anche spiare il proprio partner. Lo facevano le nostre nonne, frugando nelle tasche delle giacche e controllando i colletti delle camicie dei mariti, e lo si fa ancora oggi, come no, anzi, spiando mail, sms, profili web, cambiano i mezzi, ma lo scopo è sempre lo stesso, cercare le prove di un tradimento. Ah, la paura di essere traditi da chi si ama può assalire tutti quanti, lo sappiamo bene, anche le coppie più solide e le persone più sicure. Ma è giusto controllare il proprio coniuge? È giusto? Ma, forse sì, certe volte si dipende anche dalle situazioni. dalle persone anche. Dalle persone e dalle situazioni. I mezzi moderni di certo non aiutano a trattenersi dallo spiare il partner, complici ovviamente i cellulari, internet, sms, chat. È difficile resistere a improvvisarsi spie. Si comincia controllando il telefonino e si finisce per digitare la password per leggere anche le email o entrare nei social network. Gesti proibiti che possono essere gli estremi di un reato addirittura, tra cui la violazione della privacy, e possono creare rotture perché ogni relazione sentimentale dovrebbe basarsi per prima cosa sulla reciproca fiducia. È quello che abbiamo detto fin da quando abbiamo cominciato l'appuntamento di stamattina. Beh, sappiamo che quando vengono a mancare fiducia e rispetto è difficile condividere un sentimento, perché stare in coppia non significa annullare la propria individualità e sorvegliare la vita dell'altro, può avere un unico effetto: la rottura. È inevitabile. È giusto dunque spiare il partner? Vi faccio ancora una volta questa domanda. È difficile dare una risposta, come dicevamo prima, sul valore morale dello spiare, e non è semplice stabilire se sia giusto o meno controllare l'altro. Tuttavia, anche quando i propri sospetti sono fondati, vestire i panni di Sherlock Holmes non aiuta a risolvere la questione. Cercare le prove richiede solamente un forte stress, sia per controllare e per chi è controllato è anche abbastanza stressante, no? E l'unica soluzione in questi casi è il dialogo, perché un confronto verbale consente di capire se il tradimento è legato a un momento di debolezza, oppure a un disagio momentaneo, oppure a una crisi personale o di coppia. Insomma, bisogna parlare, come in tutte le cose. Ma quali sono però i motivi per cui spinge una persona ad andare a spiare? Certo, bisogna vedere quali sono i motivi. È normale, ci deve essere un motivo per cui uno è preso dall'impulso di andare a fare la spia, di andare a cercare qualcosa. Sì. Solitamente ciò che spinge una persona a controllare il proprio partner è la scarsa autostima. Perché le persone insicure sono spaventate dall'incertezza. Il bisogno di controllare è spesso legato a una convinzione di base per cui se controllo evito delusioni e sofferenze. E spesso questo meccanismo scatta perché si ha un background affettivo poco piacevole. Si tratta solitamente di persone che hanno vissuto l'esperienza dell'abbandono in età precoce, e da adulti i sentimenti di delusione e frustrazione possono riaffiorare e riversarsi sul partner dal cui si teme un tradimento o un abbandono. Quindi è un disturbo, si tratta di un disturbo ossessivo e compulsivo. Spiare alla lunga può creare il rischio di sviluppare un rituale appunto ossessivo-compulsivo nei confronti della persona che si ama, soprattutto quando ci si rende conto che tale attività riesce a placare le proprie ansie personali. Solo la consapevolezza aiuta a liberarsi da questo comportamento. La persona deve riconoscere il suo problema e prendere coscienza delle conseguenze che questo comportamento può avere sia a livello personale che poi di coppia. È importante analizzare le proprie ferite dell'abbandono per non scaricare queste ansie poi sul partner. Certo, e poi non da sottovalutare il fatto che comunque sia spiare è un reato. E quindi anche perché la legge italiana considera la pratica dello spiare un reato di violazione della privacy oppure della corrispondenza anche. E quindi anche quando si vogliono utilizzare queste prove in tribunale in casi di divorzio, nella maggior parte dei casi sono eliminati, sono elementi inutilizzabili. La legge vieta di impiegare come fonti di prova sia le intercettazioni di SMS e telefonate, sia i messaggi rubati da Facebook. E come dice Giorgetta, che è praticamente la nostra sponsor di oggi, dice spiare. Se ci si spia, manca la fiducia, quindi la coppia non va. La coppia scoppia in questo caso. E che fare? Non perdere tempo dunque a spiare, a cercare prove, a rubare SMS, insomma, non perdete tempo, invece balliamoci su con i Daft Punk. È questa bellissima cosa che da qualche tempo sentiamo, Get Lucky. Si sa che è la nostra colonna sonora della trasmissione. Sì, ci piace, ce la sentiamo sempre praticamente. Grazie anche a voi che ce la segnalate, ovvio. 3355637251. Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Up all night for good fun. night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Giuseppe, fermami, fermami, che fermati. Non riesco a fermarmi con questa canzone. Quanto mi piace, Get Lucky, da Punk, qui a CRMP Radio, insieme a questa vocetta in falsetto che amo, che adoro, che è quella di Farrell. E poco fa parlavamo del fatto che in una coppia ci si può spiare a vicenda e parlavamo anche dei motivi per cui si arriva a questo punto. Naturalmente, per quanto riguarda le donne, certe volte ti accorgi che il tuo uomo è un pochino bugiardello, o viceversa, la donna può essere anche bugiarda a sua volta. Insomma, ti accorgi di qualcosina di strano e cominci a essere sospettoso e insomma ti viene poi da spiare. E a quanto pare gli uomini sono più bugiardi delle donne. Ma io non lo so, Mary, guarda, perché me lo io confermi? Ieri, ma non lo so, perché io ieri ho un po' sondato questa cosa tra i miei amici e tutte ragazze che ho, a cui ho chiesto, sì, mi hanno detto: ma non lo so se gli uomini sono più bugiardi delle donne. Forse vi stiamo sorpassando anche in questo caso. A proposito di questo, Mary, scusami, è arrivato un messaggio da un'altra persona che si chiama Rita, che non voleva essere completamente nominata, e noi la nominiamo, che riguardo all'articolo di prima, a ciò che dicevamo prima del fatto di spiare o meno, lei dice: non è giusto spiare, ecco, punto. Punto e basta, oh. Non si spia. E intanto facciamo una parentesi, volevo dire a Giorgetta, sì, che visto che oggi è stata molto interattiva, la invitiamo qui in studio a essere interattiva proprio qui in diretta con noi, a parlare di altri argomenti, perché è entrata veramente in sintonia con noi questa mattina tramite i messaggi. Ottimo, va bene. Ok, allora dicevamo, gli uomini sono più bugiardi delle donne e dicono 42 bugie alla settimana, ci sono pure i numeri. 42, dai. 6 al giorno, 6 bugie al giorno, sì, il doppio di quelle dette dalla donna. E non si tratta di bambini ma di uomini adulti. Le frottole più gettonate sono le donne e l'alcol. Una ricerca recente svela perché il sesso maschile è più propenso a mentire e cosa si nasconde dietro questa frottola. Tutti mentono perché spesso la bugia aiuta a cavarsela in situazioni imbarazzanti e difficili. Tuttavia le menzogne non sono tutte uguali. Ci sono quelle bianche, fra virgolette, dette per educazione e per non ferire la sensibilità degli altri. E questo ci può anche stare, dai. c'è quella che si racconta ai bambini per gratificarli, anche se ciò che hanno fatto non è proprio perfetto, e poi ci sono quelle a fin di bene, e lì ci stanno tutte. Più che soffermarsi se sia giusto o sbagliato mentire, bisogna valutare bene dunque le persone che vogliamo ingannare, soprattutto il miglior modo per farlo. Tenere dei piccoli segreti è indice di maturità e indipendenza, e se sono singoli episodi le bugie vengono ammesse. Il problema nasce quando si innesca un circolo vizioso e la bugia viene usata per qualsiasi cosa. E questo poi non va bene. È anche segno di maturità poi in questo caso. Infatti. Le bugie degli adulti sono più difficili da interpretare e spesso segnalano un disagio. Le persone mature possono anche esprimersi con la verità perché è indice di coraggio delle proprie azioni e di umiltà ad accettare i propri errori. Coloro che mentono sempre sono spesso sono rimasti infantili e non riescono a crescere. Se nel bambino la bugia può esprimere le paure e i bisogni di rassicurazione, nell'adulto l'uso costante di menzogne sta ad indicare l'incapacità a maturare. Ma le bugie in amore, quindi ritornando anche all'interno del nostro argomento principale, sì, di oggi, bisogna dire che ci sono uomini che in amore raccontano menzogne sistematicamente, come abitudine, quindi non ne possono fare a meno, vabbè, costruendo dei veri e propri castelli di fantasia. Spesso questa modalità rappresenta una autodifesa, però, che scatta quando non si ha il coraggio di svelare alla propria donna un segreto perché non le si vuol far del male. Si tratta però di una giustificazione ed è solamente la paura di essere lasciati o che qualcosa nel rapporto possa cambiare. Ma le bugie hanno le gambe corte e prima o poi la verità viene a galla. Viene sempre a galla col tempo, il tempo poi racconta tutto. E i segnali, quali sono i segnali? Per scoprire. Basta insomma guardare negli occhi una persona per capire un po' anche la mimica e la gestualità del corpo, che non mentono mai. E se con le parole si possono inventare tante cose, la mimica ovviamente è più sincera. E alcuni segnali a cui prestare attenzione sono, ad esempio, quando si racconta una bugia gli occhi si muovono più velocemente, oppure si abbassa lo sguardo perché magari non si ha il coraggio di guardare negli occhi l'altra persona. Sì. Un altro segnale di menzogna è la coerenza tra parole ed espressioni. Se l'interlocutore, ad esempio, dice di stare bene, ma l'espressione è cupa, significa che qualcosa non va. Se c'è quindi discrepanza tra il parlato e il verbale e non verbale, c'è qualcosa comunque che ci fa un po' capire che c'è qualcosa che non va, appunto, quello che sta dicendo. Insomma, praticamente, soprattutto se conoscete la persona che vi sta di fronte, capite dalla mimica un po' se sta mentendo o se c'è qualcosa che non va oppure no. E ci sono i bugiardi cronici, però, anche proprio quelli che sono un Pinocchio per natura. Hanno una grande necessità di mantenere alta la propria autostima attraverso continue conferme sulle proprie capacità, ma hanno anche difficoltà a comprendere di aver bisogno di aiuto. Dopo una bugia gli uomini si pentono spesso, ma solo momentaneamente, perché poi non segue mai un reale cambiamento, perché continuano a mentire. L'unico modo per aiutare questi uomini è abbandonarli di fronte all'ennesima menzogna e costringerli a rimanere soli e a riflettere sui propri errori. Questi proprio sono poi i casi estremi della cosa, naturalmente. Ok, siamo veramente attivi questa mattina, il tempo ci vola proprio senza che ce ne accorgiamo, e non mi ero accorta che dobbiamo mandare subito la pubblicità, perché siamo in ritardo, perché poi c'è anche l'appuntamento con Filippo Glorioso, non dimenticate, subito dopo di noi con Carta e Penna. Ci sentiamo fra pochissimo, non andate via, c'è ancora qualche minuto per rimanere insieme. Déjà vu su CRM Happy Radio. Giorno bravo, bello, eccezionale, allegro, sensibile, fantastico. Ci saranno dei giorni grigi, ma passeranno, sai, spero che tu mi capirai. Sempre che su un cavallo bianco arriva un principe e porta la bella al castello, si sposano e sarà amore per l'eternità. Solo che la vita non è proprio così, a volte complicata come una corsa ostacoli dove non ti puoi ritirare, soltanto correre con chi ti ama accanto a te. Che io mi impegnerò, io farò di tutto, però se il mondo col suo delirio riuscirà ad entrare e far danni, ti prego dimmi che combatterai insieme a me. Ben ritornati su CRM Happy Radio, ringraziamo Vincenzo che ce l'ha richiesta con una dedica particolare. Questa canzone di Max Bezzali. Mannaggia a lui, io ci sarò, vice, sempre. Mamma mia, questa sì che amicizia. Siamo in chiusura di questo appuntamento di oggi con Déjà Vu e naturalmente vi proponiamo di continuare a stare con noi perché fra poco comincia anche Carta e Penna insieme a Filippo Glorioso, anche per questo giovedì del 30 di maggio, e naturalmente noi ci ritroveremo qui la prossima settimana, martedì prossimo, probabilmente, e dalle 10 sino a mezzogiorno. Volevamo ricordarvi che se volete ci seguite anche in podcast al nostro sito www.crmpiredi.it. E le repliche anche di sera. Di sera, ora stasera poi alle 22 potrete seguire di nuovo la replica della puntata di oggi. A proposito, è stata piena. Scusami se ti interrompo, se ti parlo sopra, ogni tanto succede, comunque sia. Non ci volevo venire. Ecco, un altro che parla di sopra, vedi? Ogni tanto questo vicino di casa arriva e deve irrompere nei nostri studi, per non dire che deve rompere un po' le scatoline. Ok. Comunque sia, vabbè. Comunque sia, per chiudere in bellezza questo appuntamento ci voleva proprio anche l'intruso. Fallo stare zitto, ancora grida. Non è lui. Ah no. Va bene, io ringrazierei tutti quelli che sono intervenuti oggi, quindi Lorenzo, Marianna, Ettore, Geri, Giuseppe, Vincenzo, Serena, Giorgetta, Fabrizia, Rita e Danilo. Sì, salutiamo tutti quanti, vi ringraziamo. E allora la prossima settimana, seguiteci stasera, salutiamo tutti i nottamboli, ciao! Buon proseguimento di giornata o buonanotte a seconda dell'orario. Infatti, ciao, ciao, a risentirci, ciao. Bye bye.